Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Incredibile profezia dei Maya. Prima della fine del mondo, l'Inter vince a San Siro e il Parlamento italiano vota la legge anticorruzione. Beh, allora possiamo ancora salvarci. Che non si è